La storia e la memoria di Dino Pesole. Due colpi di pistola esplosi a Sarajevo il 28 giugno del 1914 contro l'arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe ed erede al trono dell'impero austro-ungarico, 10 milioni di morti. La fine di un mondo, la fine del primato europeo nel mondo, la modernità trionfante della Belle Époque che si trasforma nella modernità massacrante di una guerra totale. Per 53 mesi milioni di soldati vivono nelle trincee in una guerra logorante di posizione, massacrandosi in inutili carneficine di massa. L'inutile strage, appunto, come la definì Papa Benedetto XV nel suo accorato appello ai belligeranti il 1 agosto del 1917. A 100 anni di distanza dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, lo storico Emilio Gentile ne ripercorre i passaggi salienti nel libro Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo, storia illustrata della Grande Guerra, pubblicato dalla Terza. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie per l'invito. Oltre 10 milioni di morti, circa 20 milioni di feriti e mutilati, un'intera generazione, quella dei nati nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, decimata. Per l'Italia, la Prima Guerra Mondiale ebbe inizio il 24 maggio del 1915, a fianco dell'intesa contro l'impero austro-ungarico. Al momento dell'entrata in guerra, era diffusa la convinzione che una rapida campagna militare sarebbe bastata per avere ragione degli avversari. Non andò esattamente così. L'Italia cominciò le operazioni con 35 divisioni di fanteria, ma poca artiglieria pesante. Il generale Cadorna puntava a raggiungere Lubiana e poi puntare su Vienna. In realtà riuscì a conseguire solo minimi vantaggi territoriali sull'Isonzo e sul Carso. Fu una guerra lunga, di logoramento. Una guerra di trincea, sanguinosissima, che vide l'Italia soccombere a Caporetto il 24 ottobre 1917 e poi risultare alla fine vincitrice. Quando il 24 ottobre 1918 gli italiani lanciarono l'offensiva sul fronte del Piave, l'impero era ormai in rotta. Sconfitti sul campo nella battaglia di Vittorio Veneto, gli austriaci firmarono il 3 novembre l'armistizio con l'Italia a Villa Giusti, nei pressi di Padova, che sarebbe entrato in vigore il giorno successivo, il 4 novembre. Il conflitto costò 157 miliardi di lire. Il PIL in quel periodo era di 95 miliardi. Allora, professor Gentile, intanto c'è da raccontare che tra l'omicidio dell'arciduca Francesco Ferdinando e l'inizio della guerra ci fu un mese intero in cui praticamente quasi nessuno pensava che poi sarebbe effettivamente scoppiata la guerra. Come mai? In effetti il fatto che sia scorso un mese dall'assassinio all'inizio della guerra dimostra che non ci fu una volontà immediata di trasformare l'assassinio dell'arciduca, erede al trono dell'impero austro-ungarico, in una guerra europea o addirittura in una guerra mondiale, né che fosse inevitabile che ciò dovesse accadere. Il fatto che sia passato un mese, ed era un mese estivo, significa che dopo la prima emozione, dopo le prime discussioni, riflessioni e anche minacce di guerra che ci furono nella settimana successiva, e specialmente dopo i funerali, l'Europa sembrò non occuparsi più del rischio di una guerra. I governanti, sia monarchici che repubblicani, andarono in vacanza, i capi di Stato Maggiore andarono in vacanza, l'imperatore Francesco Giuseppe andò in vacanza, l'imperatore di Germania andò in vacanza. Tutti erano convinti che quello che era accaduto sicuramente avrebbe indotto l'Austria ad intervenire, tutti riconoscevano che aveva il diritto di dare una lezione, di punire in qualche modo la Serbia, ritenuta responsabile senza prove di avere organizzato l'attentato all'arciduca. Tutto questo ancora una volta dimostrava che non c'era un'intenzione decisa di organizzare un conflitto che potesse poi addirittura diventare uno scontro sul continente europeo fra le due grandi coalizioni che dall'inizio del Novecento si confrontavano, cioè la triplice alleanza Germania, Austria-Ungheria e Italia da una parte e dall'altra la triplice intesa Inghilterra, Francia e Russia. Un mese in cui si cercò di evitare la guerra per piuttosto che di correre alla guerra. E il fatto forse che si esitò troppo nell'evitarla, certo che si sarebbe evitata, come era accaduto in altre crisi altrettanto gravi, anche se non c'era stato l'assassinio dell'arciduca o di un presidente, cosa che accadeva frequentemente, sì, in quel periodo. Sì, certo. Ecco, e teniamo conto che c'è stata la prima crisi marocchina nel 1903, la seconda crisi marocchina nel 1911, con un confronto molto teso fra la Germania e la Francia. L'intervento deciso dell'Inghilterra fece desistere l'imperatore Guglielmo II e si pensò quindi che questo sarebbe accaduto anche nel luglio del 1909. Ma in effetti, professore, se si legge quello che accadde in quei mesi con le categorie di oggi, ben difficilmente si riesce a capire poi come si determinò la decisione di far esplodere un conflitto mondiale. E lei a questo proposito parla del peso del senso dell'onore, che allora era fortissimo, oggi un po' meno forse. C'è il senso dell'onore da parte delle teste coronate, per le quali valeva ancora questo principio: non si poteva lasciar correre l'assassinio dell'erede al trono e nessuno voleva cedere all'altro per evitare una guerra. Poi c'era un'altra questione, diciamo così, di carattere etico, che oggi è completamente estranea, almeno in questa parte del mondo, ed era allora invece molto diffusa la convinzione di un valore etico della guerra, la convinzione che la guerra facesse parte della storia umana, delle vicende umane, e che nel momento in cui si presentava la necessità di doverla fare, in questo caso la necessità per tutti quelli che intervennero non era aggressiva ma difensiva, allora bisognava farla. Forse questa mentalità giocò moltissimo. Oggi, prima di arrivare a una decisione del genere, abbiamo l'esperienza nel 1991 nei Balcani, nella ex Jugoslavia, si è esitato molto prima di intervenire. Allora invece si tentò di evitarlo, ma quando sembrò che non fosse possibile, allora si decise di accettarla. E non è che loro non sapessero che sarebbe stata una guerra lunga, molti lo sapevano, e la strategia tedesca puntava proprio a fare una guerra rapida, risolutiva, come era avvenuto nel 1870 con la guerra tra la Prussia e la Francia. Sì, l'illusione che questo potesse avvenire, cioè colpire subito per concludere presto, forse fu anche la ragione per la quale la Germania poi rischiò la guerra, non pensando di doverla poi durare per 4 anni e perderla. Quanto pesò, professor Gentile, anche un clima diffuso che c'era nell'intelligenza europea in quegli anni, se vogliamo, a favore della guerra, per non citare Marinetti, la guerra soligenere del mondo, ma anche altri esempi illustri. Siamo Thomas Mann. Thomas Mann. Chi sospetterebbe Thomas Mann, uno dei campioni della lotta contro il nazismo, contro la mentalità bellicosa del nazismo, che invece nell'agosto del 14 esulta per l'esplosione della guerra, perché finalmente arriva questo temporale purificatore della società corrotta, ed esulta perché la Kultur, la civiltà tedesca, si deve battere, piena di valori spirituali, eroici e umani, si deve battere contro la civiltà materialistica dell'Inghilterra e della Francia, civiltà decadenti, civiltà corrotte, civiltà basate esclusivamente sull'interesse. Quindi da questo punto di vista forse si possono contare sulle dita di una mano o di due mani gli intellettuali, grandi intellettuali che furono decisamente contro la guerra, come Bertrand Russell, che fu persino arrestato perché aveva protestato, oppure come Benedetto Croce in Italia, che pur non essendo un pacifista e sostenendo anche lui che le guerre sono eventi divini e azioni divine, tuttavia non voleva che l'Italia entrasse in guerra. E non ci fu, nel suo libro lei lo chiarisce, poi un elemento determinante anche dal punto di vista economico, perché spesso si è sostenuto che la guerra poi è dichiarata anche perché poi la corsa agli armamenti produce in qualche modo la necessità, è una specie di impulso all'economia dei paesi, se vogliamo. Questo diciamo è stato a volte sostenuto con forza, soprattutto dalla storiografia marxista, che dall'opera di Lenin sull'imperialismo ha sostenuto che la grande guerra fu la conseguenza degli antagonismi tra le potenze imperialistiche e capitalistiche. In realtà, quanto più si è approfondito lo studio anche dell'atteggiamento delle forze economiche, degli industriali, dei finanzieri, si è scoperto che in realtà nessuno di loro puntava su una guerra, sapendo anche che poteva essere un rischio di distruzione di ricchezza, piuttosto che di conquista di ricchezza. Uno dei grandi best sellers del primo Novecento fu La grande illusione dell'economista Norman Angell, che poi ebbe anche il premio Nobel per la pace, il quale dimostrava, conti alla mano, che una guerra non sarebbe stata produttiva per nessuno. E in un certo senso questo effettivamente accadde, non solo perché crollò l'intero tedesco con tutta la sua impalcatura economica, ma crollò il primato economico dell'Europa che divenne debitrice degli Stati Uniti d'America. E alla fine, professor Gentile, l'ultima domanda che voglio porle, ma chi risultò veramente vincitore? Risultò vincitore, vinsero gli alleati, possiamo dire che piuttosto che dire chi risultò veramente vincitore, chi risultò veramente sconfitto. Furono sconfitti grandi imperi che avevano una tradizione secolare, l'impero austro-ungarico, l'impero turco, l'impero russo, scomparvero completamente e al loro posto sono nati nuovi stati nei quali ancora oggi il conflitto tra le nazionalità rischia di far esplodere o fa esplodere nuove guerre. In realtà ci fu per un momento l'illusione nel 1919 che avesse vinto la democrazia, che il mondo fosse diventato sicuro per la democrazia, come disse Wilson, dopo aver cancellato l'imperialismo e il militarismo tedesco. Ma in realtà dopo 5 anni l'Europa cominciò a diventare un continente di dittature, alcune di queste, come l'Italia e la Germania nazista, decise ad una nuova guerra per l'espansione. Bene, grazie professor Gentile, buona serata. Grazie a lei.